Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, l'ultima puntata della settimana, e come spesso ci capita di fare, il venerdì è dedicato a un monitoraggio sull'andamento dei mercati finanziari. Naturalmente la cronaca ci aiuta particolarmente in questi giorni, in questo frangente, perché lo avete sentito anche stamattina, se ne è occupato anche Oscar Giannino alle 9 nella sua trasmissione. I paesi della zona euro adotteranno, se sarà necessario, misure determinate, coordinate per preservare la stabilità finanziaria messa a rischio dagli attacchi verso la Grecia sui mercati. Ecco quanto è stato stabilito ieri in occasione del vertice informale dei capi di Stato e di Governo a Bruxelles con il presidente francese Sarkozy, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il premier greco Papandreou, il presidente della Banca Centrale Europea Trichet, il presidente della Commissione Europea Barroso. Non deve essere considerata l'ipotesi di un fallimento della Grecia, è stato aggiunto. Se una situazione del genere dovesse presentarsi, i paesi europei reagiranno in modo coordinato. È stato anche precisato che il governo greco non ha chiesto alcun sostegno finanziario, ma nella dichiarazione finale di questo vertice informale si esprime pieno sostegno al piano di risanamento della Grecia, che dovrà fare quanto necessario per realizzare il programma di riduzione del deficit pubblico. Ora, una verifica su questo programma di riduzione del deficit verrà rifatta il 16 marzo, proprio prima della prossima asta di obbligazioni greche, e allora noi oggi a Salva Danaio commentiamo tutto questo, naturalmente non facendo valutazioni su quanto è stato detto, su quanto è stato più o meno definito ieri da Bruxelles, ma commenteremo proprio la reazione, il commento, il comportamento, anzi, dei mercati finanziari, quello che intanto si è manifestato nei giorni scorsi in attesa del vertice di Bruxelles, la reazione di ieri e poi quello che sta accadendo questa mattina, perché oggi è ritornata una discreta volatilità sulla borsa. Poi, tra l'altro, ovviamente prendendo anche a spunto quanto accaduto questa settimana, cercheremo di nuovo di così fare qualche previsione per quello che è possibile fare su quello che potrà accadere nei prossimi mesi. Il quadro, sicuramente alla luce anche di questo rischio sovrano di alcune economie dell'eurozona, si è un po' deteriorato, perlomeno anche nel sentiment degli investitori. In molti a questo punto cominciano a guardare con più insistenza di nuovo sul mercato azionario, ce lo dicono in molti, sembra essere questa al momento l'asset class preferita da parte di tutti coloro che di questo si intendono. E vedremo appunto se la pensano così anche gli ospiti di questa mattina. Io li saluto già. Giovanni Zanni, responsabile del Dipartimento di Ricerca Economica del gruppo Credit Suisse, in collegamento con noi questa mattina da Parigi. Dottor Zanni, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi a Salva Danaio, così come ringrazio Alida Carcano, partner di Valior Asset Management, in questo caso in collegamento da Lugano, nessuno vicino a noi questa mattina, perlomeno nessuno in Italia, ma questo ci fa più piacere perché magari ci aiutano anche ad avere una visione proprio, come dire, internazionale. Buongiorno dello scenario che si sta manifestando. Allora, naturalmente, microfoni aperti agli ascoltatori, 800 24 00 24, il numero verde appunto per poter interagire con noi, con gli ospiti di Salva Danaio questa mattina, 349-238-6666 invece il numero per inviarci dei messaggi come alternativa, naturalmente come collegamento con noi avete anche l'opportunità di mandarci dei messaggi. Prima di sentire la nostra scheda e di partire dall'analisi sul tema che vi ho appunto preannunciato, andiamo a dare un'occhiata a quello che succede in questo momento in borsa. Allora, la partenza stamattina è stata molto vivace, avevamo rialzi di oltre un punto percentuale, un mercato che aveva avuto anche questa curiosa reazione rispetto al vertice di Bruxelles, perché ieri l'Europa era stata molto tiepida, il quadro statunitense invece era stato molto differente, perché gli indici americani hanno chiuso ieri in territorio positivo, oltre un punto di guadagno su tutti e tre i principali panieri americani. L'Europa stamattina, spinta probabilmente da Wall Street ma anche da Tokyo, aveva avuto un avvio con un rialzo di oltre un punto su tutti gli indici, e adesso invece si è cambiato completamente direzione. Cosa è successo? Che sono stati pubblicati, lo avete sentito anche nel corso del giornale radio, i dati sul prodotto interno lordo del quarto trimestre dell'Eurozona. Sono stati pubblicati i dati sulla produzione industriale dell'Eurozona a dicembre, tutti i dati che evidentemente il mercato non si aspettava, un po' peggiori delle attese, come chissà quali sorprese poi tra l'altro in positivo ci possiamo aspettare, sappiamo bene come sono andate le cose nell'ultimo periodo, e la borsa ha cambiato direzione. Adesso abbiamo il segno meno ovunque, con Parigi che scende dello 0,36%, Londra meno 0,43%, rimane ancora appena positiva Francoforte, Milano meno 0,26%, ma è soprattutto a risentirne di più di tutto questo stamattina l'euro, che sul dollaro quota 1,35,44. Rapidamente i migliori titoli di Piazza Affari: Campari più 2,61, Eni ha pubblicato i dati stamattina più 2,25, Telecom più 1,56, peraltro Telecom sempre lì, poi la speculazione non fa altro che far muovere questo titolo da qualche settimana, partito con un ribasso di oltre mezzo punto, ha cambiato radicalmente direzione, adesso cresce parecchio. Enel più 0,9, Snam più 0,8%. Sono in calo tutti i titoli del settore bancario, in particolar modo il Banco Popolare meno 2,74, ma anche Buzzi Unicem meno 2,64, ribasso di 2,5 punti per Fiat e la Popolare di Milano. Questa è la borsa in questo momento, ma sentiamo un po', anche in attesa del vertice di Bruxelles di ieri, come si sono mossi i mercati negli ultimi giorni. Ecco la nostra scheda. Il sostegno alla Grecia da un lato e la difesa della solidità dell'euro dall'altro. Queste le linee guida del vertice che ha riunito ieri a Bruxelles i 27 leader dell'Unione Europea. E se per il momento non è stata ancora fornita nessuna linea di azione precisa, un accordo è comunque stato raggiunto e si basa su due pilastri. Il primo è l'intenzione di non abbandonare la Grecia al proprio destino, assicurando una protezione in nome della stabilità dell'intera unione monetaria. Il secondo è il compito assegnato al governo greco, che dovrà attuare rigorosamente i tagli del deficit già definiti e anzi attuare anche quelle misure aggiuntive che già oggi appaiono necessarie per rispettare l'impegno a portare il deficit da oltre il 12% del PIL a un livello inferiore al 3% entro il 2012. Bisognerà dunque analizzare l'evolversi della situazione per avere elementi più concreti. Secondo alcuni, le riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin in agenda la prossima settimana potrebbero già fornire qualche dettaglio in più, e proprio l'assenza di linee guida e i timori di una possibile estensione della crisi ad altri paesi europei sembra aver innervosito ieri i mercati, che dopo un avvio in rialzo hanno invertito la rotta. Le stesse tensioni che hanno spinto al ribasso l'euro, sceso ad un minimo giornaliero di $1.36. E stamattina è sceso ancora ulteriormente, 1,3542. Peraltro vedo già qualche domanda di qualche ascoltatore che è proprio orientata sul tema valutario, allora ci andremo tra breve. Prima però un paio di domande, tra l'altro già entro 3 o 4 minuti devo andare di nuovo in pausa, ma sentiamo subito cosa ne pensano di questa situazione maturata nell'ultima settimana i nostri ospiti. Dottor Zanni, da Parigi, responsabile del Dipartimento di Ricerca Economica di Credit Suisse. So che lei è impegnato ogni giorno in analisi di natura macroeconomica, però sicuramente un commento rispetto a quanto accaduto negli ultimi giorni sui mercati potrà farcelo. C'è una grande attesa rispetto al vertice di ieri, poi ieri nessuna ricetta concreta è stata data, l'Europa ha detto se la Grecia andrà in difficoltà più forte e se sarà necessario farlo noi interverremo, quindi in sostanza l'Europa ha detto vogliamo fare noi, evitando possibilmente l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale. Reazione fredda ieri, stamattina invece partenza di nuovo vivace, oggi l'Europa di nuovo guarda ai dati economici. Cosa pensa di tutto questo? Penso che effettivamente c'è stato questo elemento un po' che ha aiutato a dare una risposta politica da parte dell'Europa, ma che non ha dato risposte concrete, tecniche, e quindi i mercati, dopo un'iniziale reazione forse più positiva, stanno chiedendo un po' cosa succederà più nel dettaglio, quindi è ritornato un po' d'incertezza. Invece per quanto riguarda le borse e l'euro, direi che c'è un elemento sicuramente delle vicende legate alla Grecia, ma più complessivamente ci abbiamo avuto dei dati più forti in Asia, negli Stati Uniti nelle ultime settimane, meno forti in Europa, e c'è anche una reazione di politica monetaria che sembra un po' differenziarsi più di prima, quindi abbiamo un restringimento, un annuncio di restringimento delle condizioni monetarie che mi sembra più evidente fuori dall'Europa. Quindi tutto questo contribuisce, se vogliamo, a riaggiustare un po' il tasso di cambio dell'euro, che era forse troppo, sbilanciato a favore dell'euro, insomma, sopravvalutato l'euro, dice. Esatto, quindi in qualche modo permette questa correzione, vista la posizione relativa delle politiche monetarie e della crescita, e in più certamente l'incertezza legata a quello che è successo nelle ultime settimane. Insomma. No, tra l'altro questa considerazione sulla politica monetaria della Banca Centrale Americana è interessante, perché fino all'ultimo meeting della Federal Reserve si era detto con grande chiarezza che i tassi rimarranno su questo livello così basso ancora a lungo, perché il sostegno all'economia ancora deve essere dato per lungo tempo, questo corridoio fra lo 0,025% dei Fed Funds appunto praticato negli Stati Uniti. E invece proprio da qualche giorno fa il presidente Ben Bernanke ha detto: siamo pronti a riprendere la stretta monetaria. Quindi anche qui ci siamo un po' interrogati su questa sua dichiarazione, perché sembrava essere un po' in conflitto con quanto preannunciato nelle, come dire, sedi formali delle riunioni della Federal Reserve, ma forse era necessario dare anche questa indicazione al mercato. Alida Carcano, Valeur Asset Management, e chiedo anche a lei, prima di andare in pausa, un commento su questo scenario maturato nel corso della settimana. Diceva Zanni, sì, le borse insomma hanno avuto una reazione dopo aver letto forse con un po' più di chiarezza quanto è emerso ieri da Bruxelles. È emerso poco, per la verità, ma le borse generalmente hanno bisogno di certezza, pure con una ricetta non tanto definita come quella data ieri dai leader europei. La borsa si accontenta, secondo lei? No, non credo che la borsa si accontenti. La borsa starà a vedere quello che succederà ai prossimi incontri ECOFIN, il prossimo già la settimana prossima, poi a marzo, e poi soprattutto quello che succederà quando scadrà il debito della Grecia e dovrà essere rifinanziato. Ricordo che tra l'altro la prossima settimana pubblicheranno i risultati molte società importanti quotate, per esempio in Italia Eni, molte banche, e quindi la borsa ha un atteggiamento un po' attendista, appunto parte bene, poi escono dei dati, rallenta un attimo. Credo che questa volatilità non esagerata, ma comunque presente, persisterà sicuramente nelle prossime settimane. Eni ha pubblicato i dati questa mattina, forse non so se le fosse sfuggito, ma forse era solamente un riferimento appunto generale. Intanto il titolo sta crescendo appunto del 2%, quindi sembrano essere particolarmente apprezzati dal mercato, sta di nuovo intorno ai 17 euro. In ogni caso, comunque, la rosa delle trimestrali si arricchirà settimana prossima, quindi anche a quello il mercato andrà a guardare, come sempre fa, e soprattutto probabilmente il prossimo test importante per il mercato sarà la nuova prossima appuntamento con il rifinanziamento del debito greco. Allora, 800 24 00 24, un primo commento sulla cronaca freschissima con Alida Carcano e Giovanni Zanni. Adesso ci fermiamo, c'è pronta una domanda di Nico da Udine, poi ritorniamo magari commentando anche un'altra cosa, il cosiddetto quadro previsionale formulato dagli analisti di Morningstar, che è questa società appunto che è incaricata di elaborare dei rating sui fondi comuni di investimento, una delle più grandi società in questo senso appunto a livello mondiale. Pubblica ogni mese il quadro previsionale, appunto interpellando un bel gruppo di operatori finanziari e di gestori, e vi racconterò che cosa prevedono. In sostanza sembra che potrebbe tornare l'ottimismo su Wall Street, il mercato delle obbligazioni fiuta invece la stretta monetaria, l'euro probabilmente rimarrà sotto pressione. Eccoci di nuovo a Salvadanaio a commentare l'andamento di borsa recente, qualche prospettiva futura dopo il vertice di Bruxelles di ieri, chiamato a stabilire quali strategie adottare per un eventuale salvataggio, se ci fosse bisogno, della Grecia. Allora, ovviamente quanto emerso ieri da Bruxelles, ma non solo, ha un impatto in borsa, lo abbiamo già detto, ha un impatto soprattutto sul mercato valutario. Allora, vorrei sentire la domanda di Nico da Udine per poi rispondere con i nostri ospiti di questa mattina: Giovanni Zanni, responsabile del Dipartimento di ricerca economica di Credit Suisse, Alida Carcano, partner di Valeur Asset Management. Nico, buongiorno. Ah, buongiorno a voi, intanto vi ringrazio. Grazie a lei. La domanda era questa, cioè praticamente ho visto l'andamento, diciamo, dell'economia europea, la difficoltà della Grecia, dell'Irlanda, Portogallo e Spagna e tutto quanto. Sì. E non poteva essere diversamente, perché lavorando lo vedi le difficoltà economiche del paese, che loro dicono che la crisi è passata, ma se vedi tutte le aziende sono quasi ferme. No? Però questo non si rispecchia, diciamo, nel cambio, diciamo, dollaro-euro, perché 1,37, cioè nel senso non è che siamo così forti dalla parte economica europea per avere un tasso di cambio di questo. La mia domanda è questa, cioè cosa si prevede nel prossimo futuro, e perché questo danneggia molto, diciamo, l'economia europea nelle esportazioni, perché avendo un euro così forte, la crisi economica che fa la sua parte, troviamo sempre della parte debole della crisi. Sì, diciamo che l'euro così forte non è sicuramente nelle condizioni in cui si trovava qualche mese fa. Stamattina peraltro si è portato proprio pochi minuti fa ai minimi da maggio scorso, quindi da praticamente 10 mesi a questa parte, a frenare la divisa europea. Lo dicevamo, oltre alla Grecia anche l'inatteso calo della produzione industriale dell'eurozona a dicembre. Dottor Zanni, questa è sicuramente una domanda per lei. Dal punto di vista, come dire, se dovessimo utilizzare questo parametro per la questione import-export, sicuramente avremmo una valuta da qualche tempo un po' più favorevole a noi, ma a quanto pare non basta ancora. Ma io direi ci sono varie cose da dire. Appunto, come diceva lei, prima di tutto è più favorevole di quanto non lo era solo qualche settimana fa. Giusto per avere un'idea, se un 10% di deprezzamento del tasso di cambio dell'euro se è sostenuto nel tempo, dovrebbe aiutare con 1% di PIL la crescita europea, quindi 10%, 1% è la regoletta che di solito utilizziamo. Altra cosa da dire è che c'è tutta una questione da fare sul volume, sulla domanda esterna e della domanda globale, che sta risalendo molto chiaramente, e quindi il problema che ci abbiamo avuto negli ultimi mesi e trimestri è stato anche un fattore cambio, ma soprattutto un fattore volume, e stiamo vedendo dei notevoli miglioramenti della situazione. Io direi che la nostra visione sull'economia è relativamente rose, insomma pensiamo che nei prossimi trimestri ci sarà una crescita abbastanza robusta in Germania, in Francia, in Italia. Chiaro che in Spagna, Portogallo, Grecia, Irlanda questo non sarà il caso, ma è anche da dire che questi paesi rappresentano meno del 20% della zona. E quindi in sostanza questo ci dovrebbe tranquillizzare, anche se naturalmente molti dicono, qualora dovesse verificarsi una bancarotta della Grecia, non è che poi il fatto che pesa poco o relativamente nell'ambito appunto dell'economia dell'eurozona complessivamente, questo non è che deve per questo motivo appunto non interessarci, dottor Zanni, giusto? Giusto, però proprio per questo, cioè il messaggio che c'è stato ieri è da quel punto di vista molto chiaro, cioè hanno detto non ci sarà un default, poi non ci sono le misure esatte, quindi permane un po' di incertezza, ma penso che sul default di un paese che vale insomma 2,5 punti della zona, insomma una cosa si può evitare abbastanza facilmente. Potrà essere gestito. E in ogni caso, secondo lei, a prescindere dalla Grecia, quali altri fattori potranno condizionare, se ci sarà e se lei lo ritiene, un'ulteriore discesa dell'euro sul dollaro, e come potrà muoversi appunto questo rapporto valutario, e se ritiene che ce ne siano anche altri da tenere sotto controllo, da monitorare attentamente, esattamente quanto il rapporto euro-dollaro? Direi che sulle valute, come dicevo all'inizio, è un fattore di crescita relativa, politica monetaria relativa e appunto questa incertezza all'interno della zona, quindi abbiamo già individuato i fattori. Non sono sicuro che la situazione attuale dell'economia europea riflette quello che ci avremo tra qualche mese, ovvero quello che abbiamo visto di crescita molto forte negli Stati Uniti nel quarto trimestre. Non mi stupirebbe qualche cosa, lo vediamo nel primo trimestre o nel secondo qui in Europa. Per esempio in Italia c'è l'ultima stima dell'ISAE sulla produzione industriale per il primo trimestre, parla di un 2%, che insomma è più che decente. Più che decente, esatto, alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi, sicuramente questo più 2. Allora, volevo tornare ad Arida Carcano, che ci dà invece qualche suggerimento in termini proprio di strategie di investimento da adottare alla luce dei fatti recenti, dicevamo. Allora, ammettendo di avere all'ascolto appunto investitori affezionatissimi ai titoli di Stato, Carcano. Questa mattina peraltro ci sono state due aste BTP offerti dal Tesoro italiano, c'è stata un'asta per titoli a 5 anni e un'altra per titoli a 15 anni, in entrambi i casi abbiamo rendimenti in leggero calo, ma in ogni caso questa è una tendenza che stiamo notando già da qualche tempo. Alla luce insomma delle preoccupazioni che abbiamo per la Grecia, se qualcuno le venisse a chiedere come posso in questo momento costruire un portafoglio di titoli di Stato che mi proteggano naturalmente, che non siano particolarmente, che non sia un portafoglio che non sia particolarmente volatile, volatile, insomma, è giusto fare una considerazione di questo tipo quando investiamo in titoli di Stato, oppure si può costruire un portafoglio conservativo che non sia oggetto, insomma, a tanti scossoni, anche se abbiamo visto che nel mercato dei titoli di Stato recentemente questa è stata in realtà la caratteristica principale? Ma diciamo che storicamente quando si investe si tende a definire il titolo di Stato come il cosiddetto risk free, l'investimento senza rischio. È ovvio che alla luce di quanto è successo negli ultimi tempi questo non è più vero, però bisogna comunque sempre tenere in considerazione il fatto che il titolo di Stato rimane comunque un tipo di investimento che in termini relativi ad altri investimenti relativamente interessante da un punto di vista di rischio basso in ogni caso. Dicevate prima giustamente la probabilità che la Grecia fallisca è comunque bassissima e ce lo dicono i mercati stessi, tra l'altro, perché i mercati non stanno apprezzando un fallimento della Grecia o grossi problemi da parte di altri paesi. Posso farle una parentesi? Sì. Voi esperti, come tanto per spiegare ai nostri ascoltatori, come capite che il mercato non prezza una possibile bancarotta della Grecia? Ce lo può spiegare in termini semplici, Carcano? Sì, perché sul mercato c'è, diciamo, uno strumento di investimento che si chiama credit default swap, cioè praticamente è uno strumento che si può comprare per comprare un'assicurazione contro il fallimento di qualcosa, anche di uno Stato. Uh-huh. È ovvio che il credit default swap della Grecia è diventato particolarmente caro in questi ultimi tempi, però non così caro da farci pensare a un prezzo così elevato da prezzare appunto una possibilità di bancarotta. Stiamo un po' entrando chiaramente nelle technicalities degli esperti. No, ogni tanto ne abbiamo anche parlato, ma era così anche per rispiegare agli ascoltatori come fate a fare queste valutazioni, no? Perché non è che vi scendono così dall'alto, ci sono degli strumenti finanziari che sono appositamente utilizzati ed analizzati proprio per capire questo e prevedere appunto certe situazioni. Sì, perché ci dicono sostanzialmente che cosa sta pensando il mercato in quel momento. Quindi, secondo noi, comunque, in un portafoglio dei titoli governativi, dei titoli di Stato ci debbono essere. Anzi, forse sul mercato in questi ultimi giorni si sono proprio anche aperte delle opportunità per chi ha chiaramente la voglia di investire, anche prendendosi un pochettino più di rischi, di comprare più titoli di Stato, anche ad esempio di paesi quale l'Austria o quale il Portogallo, che hanno chiaramente dei rendimenti maggiori. Stiamo, ripeto, parlando, soprattutto nel caso di Portogallo, di un rischio che è maggiore, ma che probabilmente non andrà comunque a fallire. Questo Portogallo che è nel gruppo dei PIGS, come abbiamo ricordato più volte, insieme ad Irlanda, perché non c'è più l'Italia in questa fase, Grecia appunto e Spagna. Carcano, sì. Sì, fortunatamente è diventato PIGS, non più PIGS con l'Italia. Infatti, dentro. Esattamente. Ecco. Quindi, cioè, mi sembra, diciamo, assolutamente utopico pensare di uscire completamente dai titoli di Stato. Ciò detto, è vero che sta tornando un certo appetito per il rischio anche azionario, anche perché comunque il titolo di Stato rende talmente poco che ci si butta un po' più sulle azioni. Allora, buttarsi sulle azioni chiaramente ha dei rischi. Io voglio sottolineare soprattutto il fatto che se da un lato non temiamo la bancarotta di alcuni Stati europei, è però vero che queste strette che molti Stati debbono comunque introdurre, e la Grecia è uno, lo stiamo toccando con mano, ma non è certamente l'unico, avranno poi degli effetti sulla crescita economica, avranno degli effetti sui consumi. Mi raccontava un'amica greca che la loro televisione li sta bombardando sul fatto che i prossimi anni saranno anni di austerità. Lo abbiamo visto con le manifestazioni di protesta, le discese in piazza di lavoratori di tutti i settori negli ultimi due giorni in Grecia, certo, quindi è ovvio che poi a livello sociale un forte malumore c'è, perché pagano tutti rispetto ad una gestione che qualcuno definisce piuttosto dessennata delle finanze pubbliche, Carcano, no? Esattamente, quindi alla lunga è quale può essere però l'effetto effettivamente sulla crescita economica di queste misure restrittive. Quindi a breve noi non siamo negativi sui mercati azionari, alla lunga invece bisognerà vedere effettivamente poi se gli effetti saranno limitati, perché queste misure restrittive caratterizzano solamente paesi di importanza marginale, oppure se effettivamente diventeranno più importanti per l'Unione Europea in generale. Certo, infatti, anche perché sì, sicuramente possiamo anche considerare relativamente il caso greco un caso isolato, ma vivendo nell'Eurozona, avendo faticato tanto anche per costruirla, appunto, dovremmo indubbiamente un po' imbarcarci tutti in termini di responsabilità anche finanziaria, eventualmente, di questo salvataggio, della situazione, di questa situazione molto difficile. Allora, Simone da Chieti, benvenuto. Ah, buongiorno. Buongiorno, l'ho mandato in onda così, a bruciapelo. Sì, ma guardi, io ho una domanda semplice, perché vi ascolto molto spesso. Sì. Però ritengo una cosa, che gli analisti dei vari che danno questi voti sui paesi, eccetera, dal mio punto di vista sono un paio di anni che hanno perso totalmente la realtà. Di che analisti parla? Perché sì, sicuramente è un po' la reputazione delle agenzie di rating che assegnano il giudizio al debito di questi paesi si è deteriorata, lo sappiamo benissimo, ma ha dei riferimenti più specifici. Ma non è deteriorata, è semplicemente la bolla era evidente a tutti quanti quelli che potessero aprire gli occhi. Noi siamo un'azienda che produce e che fa forniture, ad esempio in vari paesi in via di sviluppo. Posso dirle che noi abbiamo sentito quelli che potevano essere i risultati della crisi già dal 2006. Infatti noi ci siamo orientati su determinati paesi che erano un po' più solidi, che avevano una struttura finanziaria più credibile rispetto ad esempio a Dubai o ad altri. Sì. Lì dove tutti andavano e correvano, stesso discorso per quanto riguarda la Grecia e la Spagna, che nella realtà insomma vedevamo facevano degli enormi progetti che sono stati cancellati di volta in volta perché non avevano la capacità. Aveva una domanda, Simone, io capisco la sua, non vorrei adesso ritornare di nuovo indietro a rianalizzare tutte le questioni legate al fatto se si poteva prevedere o meno la situazione di crisi. Ormai ci siamo nel pieno, la stiamo anche tentando di superare. Aveva una riflessione specifica per i nostri ospiti? Certo, ma perché i mercati hanno continuato a puntare sull'area euro quando nella realtà di fronte a qualsiasi crisi noi abbiamo una struttura finanziaria che ha un ritardo di almeno 2 anni sugli Stati Uniti. Quindi io ho visto subito dopo la crisi tutti che si buttavano su Europa quando nella realtà come si dice, lo tsunami non ancora arrivava da noi. Ho capito, Simone. Beh, allora, sa, il mercato è sempre un po' schizofrenico e chiaramente scappa subito intanto da dov'è il focolaio della crisi. Zanni, voleva aggiungere qualcosa a quanto ha detto il nostro ascoltatore di Chieti? Ha ragione, insomma, l'Europa arriva sempre in ritardo rispetto agli Stati Uniti, ma questo lo sapevamo già. Là parte tutto, è partita anche la crisi, poi ci è piovuto addosso anche a noi. Ma oddio, non sono completamente d'accordo. Gli Stati Uniti hanno moltissimi vantaggi, hanno un mercato sicuramente del lavoro flessibilissimo, infatti, e hanno una capacità di reazione encomiabile, però direi l'Europa c'ha altri vantaggi, è molto diversificata, un portafoglio di country di paesi molto diversi, quindi è vero che abbiamo questi problemi in qualche paese minore, ma la Germania secondo me c'ha un potenziale di crescita molto molto forte, ha fatto esattamente l'opposto di quello che ha fatto la Spagna negli ultimi 5-10 anni, sì. E potrebbe in qualche modo far ripartire domanda interna con dei tassi reali più bassi, far ripartire gli investimenti senza pesare sul deficit. Non hanno un debito privato particolarmente elevato, così come non c'era l'Italia, tra parentesi, anche la Francia tutto sommato è abbastanza equilibrata, quindi il grosso dei paesi secondo me non è messo così male e non è detto che gli Stati Uniti usciranno dalla situazione attuale di deficit comunque molto importante e di crisi delle famiglie col debito elevato più importante completamente illese. Quindi per adesso le cose stanno andando meglio per gli Stati Uniti, ma non penso che sia una... No, tra l'altro mi fa piacere questa ricetta che ci ha dato, perché qualora magari per i propri investimenti gli ascoltatori di Salvadanaio, appunto, che ci seguono sempre, volessero continuare a mantenere il proprio investimento nell'ambito europeo, magari ecco ci ha dato anche una ricetta, quindi da osservare per il futuro molto attentamente quello che potrebbe accadere alla Germania. Sentirei Andrea D'Ascoli Piceno. Sì, buongiorno e grazie, vi ascolto sempre. Grazie Andrea. Sì, io ho una gestione patrimoniale, una linea decisa che sarebbe un 40% azionaria e un 60% azionaria e obbligazionaria, una parte divisa più o meno un 60 e un 40. Sì, allora non ho capito però dov'è il 60 e dov'è il 40, mi scusi. Il 60 è in obbligazionaria e il 40 è in azionaria. Sì. Chiedevo cortesemente, visto considerato il momento in cui stiamo passando, se è il caso di spostarsi in una linea azionaria. Bisognerebbe capire però questo 40% azionario su che mercati è dislocato, così come quel 60% obbligazionario lì da Carcano. Ci bastano queste poche indicazioni di Andrea intanto per dargli qualche piccolo così suggerimento di orientamento per i prossimi mesi? Mi devo dare necessariamente... necessariamente una risposta un po' generica. Per sì. il momento resterei comunque investito così. Mi preparerei ad aumentare leggermente l'investimento azionario nei momenti di correzione, però come dicevo prima, alla lunga secondo me poi l'investimento azionario sarà da alleggerire a favore dell'obbligazionario quando però i tassi di interesse saranno eventualmente già ripartiti e quindi cercando di entrare nell'obbligazionario tassi di interesse più elevate. Debora, ti ringrazio per l'osservazione, bisogna vedere come è investito l'azionario e mi viene da dire anche le valute, perché abbiamo parlato per un bel po' di Europa e di Stati Uniti come alternative tra di loro, esatto, non abbiamo però menzionato tutto il resto del mondo. C'è tutto il resto del mondo chiaramente come grande alternativa. Beh, qui il discorso è relativamente semplice, perché abbiamo parlato tanto di debito, insomma gli Stati Uniti e l'America possiamo parlarne a lungo, ma sono tutti e due un po' zoppi da questo punto di vista, mentre invece i paesi emergenti in questo momento sono messi meglio. Abbiamo parlato tanto di crescita, la crescita che in Europa c'è e non c'è, abbiamo visto appunto anche i dati di questa mattina, e negli Stati Uniti c'è sicuramente in maniera abbastanza interessante, però insomma siamo sempre un po' sul chi va là a ogni dato che viene pubblicato, mentre invece indubbiamente la crescita economica è più interessante nei paesi emergenti. Diciamo che in media le grandi case si attendono per i paesi sviluppati nei prossimi anni una crescita del 2,3%, per i paesi emergenti una crescita del 6,7%. Quindi magari ad Andrea anche il suggerimento di andare a verificare come è composto questo 60% di quota azionaria del suo portafoglio e magari fare qualche piccolo aggiustamento lì dentro, Carcano? Come paesi e come settori direi. Benissimo. Perché chiaramente anche questo è l'altro discorso interessante, quali settori, società che pagano alto dividendo per esempio, ne ha, potrebbe essere una cosa interessante in un momento di rendimenti particolarmente bassi. Benissimo, io ho terminato la trasmissione di questa mattina, 10 secondi a Giovanni Zanni prima di salutarci. Secondo lei quest'anno la Banca Centrale Europea riprende ad aumentare i tassi, Zanni, in 10 secondi? Me ne basta una, sì. Seconda parte dell'anno non comincerà prima però. No, seconda parte dell'anno sicuramente. Benissimo. Vedremo un piccolo ritocchino all'insù anche per quello che riguarda i tassi della Banca Centrale Europea. Grazie a Giovanni Zanni per essere stato con noi, grazie anche ad Alida Carcano. Salvadanaio termina qui, noi ritorniamo lunedì, ci occuperemo di quello che succede questo fine settimana a Napoli. C'è il Forex, il meeting annuale degli operatori finanziari, 16° congresso, con l'attesa relazione del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Sentiremo che cosa ci dice anche sulle problematiche appunto di mercato, sull'economia italiana, su come stanno andando le banche. Generalmente i suoi interventi sono sempre piuttosto interessanti, ci danno modo poi di sviluppare almeno 20 puntate di Salvadanaio. Grazie a tutti, buon fine settimana.